frutti d'oro, la locanda, zicchi nicca, cioccolato. Ascolta questa voce, boh. Sa vita spacciara e sa voci dei moto su chi cantara si vezzara fin casa cielo deo no tu creo oi ci seo grazi no du sciu non sesi motu ma sesi biu deo avarro all'ibiu cassa sotti e bagassa prima di ingrassare e dopo di lassara prendi d'assa s'attivassara finza sa gana ci pensai che non c'è corriera votorrai non c'è dinai vo tu vagai a yoga vai buffa e cumbina buffai che su vesu de su dolori moi è troppo grai vai sicuro cade uno ti scaresciu in conca resciu, sa regore cresciu beh su de domo, moi no tromu voita di più su sonno sa basca chi due via sa diga mi varera un forru serru, un altro borru pensando a tu è un disellon più a un disellon più, aiuto. Mo spero tu stia bene come un bambino, spero che tu mi guardi sempre da vicino, spero che non si spenga mai quell'accendino, mi sembra che ti vedo in scooter con il cappellino, ma la vita è un casino, il tempo è assassino, non si capisce mai se sbaglia questo bilancino, ma io continuo, e questa era la mia per Lorenzino, per Lorenzino, per Lorenzino, e per tutta la gente che non c'è più. 2001, zicchi nicca, sallocanda, io rispetto a tutte le persone che ci circondano.